Buongiorno, buongiorno. L'indice prevede di parlare di premiazioni, di giochi al rialzo, dell'elemento mancante, di furti e di tornare brevemente sul rapporto fra videogame e Bibbia.